Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Nemici, una storia d'amore, di Isaac Singer, traduzione di Bruno Dera. Masha fumò mentre mangiava, alternava un boccone e una boccata di fumo, assaggiava qualche piccola cosa di ciascuna portata, poi scostava il piatto, ma continuò a servire cibo a Herman, esortandolo a mangiare. «Immagina di trovarti nel fienile di Lipsk e fingi che la tua contadina ti abbia portato un pezzo di carne di porco. Come possiamo sapere che cosa ci riserverà il domani? Tutto potrebbe ripetersi di nuovo. Massacrare ebrei fa parte della natura. Gli ebrei devono essere massacrati. È questo che Dio vuole.» «Figlia, mi stai spezzando il cuore.» «È la verità. Papà diceva sempre che tutto proviene da Dio. Lo dici anche tu, mamma. Ma se Dio ha potuto consentire che gli ebrei d'Europa venissero uccisi, quale motivo esiste per pensare che impedirebbe lo sterminio degli ebrei d'America? Dio non se ne cura. Ecco com'è Dio. Giusto, Herman?» «Chi lo sa? Tu hai sempre la stessa risposta per tutto. Chi lo sa? Qualcuno deve saperlo. Se Dio è onnisciente e onnipotente, dovrebbe poter difendere il suo diretto popolo. Se rimane inerte in cielo e tace, questo significa che la cosa deve infastidirlo quanto la brina dell'anno scorso.» «Figlia, vuoi lasciare in pace Herman, sì o no? Prima fai bruciare la carne, poi lo tormenti con le tue domande mentre lui sta cercando di mangiare.» «Non ha importanza», disse Herman, «vorrei poterle rispondere. Può darsi che la sofferenza sia un attributo di Dio. Se uno ammette che tutto è Dio, allora anche noi siamo Dio. E se io ti percuoto, significa che Dio è stato percosso. Perché Dio dovrebbe percuotere se stesso? Mangia, mangia, non lasciare niente nel piatto. Ah, è questa la tua filosofia. Se gli ebrei sono Dio e i nazisti sono Dio, allora non rimane più niente da dire. Mamma ha messo in forno una torta, te ne porterà una fetta. Figlia, prima deve mangiare la conserva di frutta. Ma quale importanza ha che cosa mangia prima? Tanto nello stomaco si mescola tutto. Sei una dittatrice, mamma, ecco che cosa sei. E va bene, portagli la conserva di frutta. Ve ne supplico, non litigate a causa mia. Quello che mangio prima non ha alcuna importanza. Se voi due non riuscite ad andare d'accordo, come potrà mai esserci la pace? Le ultime due persone rimaste al mondo si uccideranno a vicenda. E ne dubiti? Io no. Si affronteranno con bombe atomiche e moriranno di fame, perché nessuna delle due darà modo all'altra di mangiare. Se una dovesse concedersi il tempo per mangiare, l'altra lancerebbe la bomba. Papà mi portava sempre al cinema. Lei odia il cinema, Masha accennò con la testa a sua madre. Ma papà andava pazzo per i film, diceva sempre che quando era al cinema dimenticava tutti i suoi guai. A me il cinema non interessa più adesso. Ma allora piaceva anche a me. Gli sedevo accanto e lui mi consentiva di tenergli il bastone. Quando papà partì da Varsavia il giorno in cui tutti gli uomini se ne andarono attraverso il ponte di Praga, additò il bastone da passeggio e disse: «Finché avrò questo, non sarò perduto.» Ma perché ho ricordato questo particolare? Ah, sì, in un film facevano vedere due cervi maschi che si battevano per una femmina, intrecciavano le corna e si dimenavano qua e là finché uno dei due non cadeva morto. Anche il superstite era mezzo morto. Per tutto il tempo la femmina continuava a brucare l'erba, come se la cosa non la riguardasse minimamente. Io ero bambina, frequentavo il secondo anno delle medie. Pensai allora: se Dio può immettere tanta violenza in due bestie innocenti, non c'è speranza. Nei campi di concentramento ricordavo spesso quel film, mi faceva odiare Dio. «Figlia, non dovresti parlare così.» «Faccio molte cose che non dovrei fare. Porta la conserva di frutta.» «Ma come possiamo capire Dio?» Chifrapois si avvicinò alla cucina economica. «No, davvero, non dovresti battibeccare tanto con lei», disse Herman sommessamente. «Che cosa ne ricavi? Se mia madre fosse ancora viva, non le risponderei male. Vi sta insegnando come devo comportarmi? Tocca a me vivere con lei, non a te. 5 giorni alla settimana te ne stai con la tua contadina, e quando finalmente vieni qui cominci a predicare. Mia madre mi esaspera con la sua religiosità e la sua ristrettezza di idee. Se Dio è così giusto, perché fa tante storie se la minestra non cuoce in fretta come lei vorrebbe? Se vuoi sapere come la penso io, ci tiene alle cose materiali più di qualsiasi ateo. Prima mi esortò a sposare Leon Trosciner, perché era solito portarle dolcetti. Dopo cominciò a trovargli difetti, Dio solo sa perché. quale differenza poteva fare per me chi avrei sposato, dopo tutto quello che avevo passato, quale importanza poteva avere? Ma dimmi, com'è la tua piccola contadina? Le hai detto che partivi di nuovo per vendere libri? Che altro avrei potuto dirle? Dove ti trovi oggi? A Filadelfia. Che cosa accadrà se lei verrà a sapere di noi? Non lo saprà mai. È sempre possibile. Puoi star certa che non ci separerà mai. Non ne sono tanto sicura. Se puoi trascorrere tanto tempo con un'oca analfabeta, allora, senza dubbio, non ti occorre niente di meglio. E poi, che senso c'è a sgobbare per un rabbino truffatore? Diventa almeno rabbino e truffa a nome tuo. Questo non posso farlo. Ti stai nascondendo ancora nel fienile. Ecco la verità. Sì, è la verità. Esistono militari che possono sganciare una bomba su qualche città e uccidere un migliaio di persone, ma non sanno indursi a tirare il collo a una gallina. Fino a quando non vedo il lettore che inganno, e lui non vede me, posso sopportare la cosa. Del resto, quello che scrivo per il rabbino non nuoce a nessuno. Tutt'altro. Questo significa forse che non sei un impostore? Lo sono! E finiamola di parlarne. Chiffre à pois tornò. Ecco la conserva di frutta. Aspetta, lascia che si raffreddi. Che cosa stava dicendo di me, mia figlia, eh? Che cosa stava dicendo? Si direbbe che io sia la sua peggiore nemica, da come parla. Mamma, lo conosci il proverbio? Dio mi protegga dagli amici, io penserò a proteggermi dai nemici. Ho visto come hai saputo proteggerti da loro. Oh, beh, dato che sono ancora viva, dopo il massacro della mia famiglia e del mio popolo... Hai ragione. Tu sola, Masha, sei responsabile. Riposerei già per sempre adesso, se non fosse stato per te. Dopo cena, Herman andò in camera sua. Era una stanza minuscola, con una sola finestra che dava su un cortiletto. Là sotto cresceva erba e c'era un albero sbilenco. Masha aveva lasciato il letto disfatto. Sparsi qua e là, dappertutto, si trovavano libri, manoscritti e pezzi di carta coperti dai ghirigori di Herman. Proprio come Masha doveva avere sempre una sigaretta tra le dita, Herman non poteva tenere in mano una penna o una matita. Aveva scritto e preso appunti anche nel fienile a Lipsk. Ogni volta che tra le crepe del tetto penetrava luce a sufficienza, si esercitava in una scrittura ornata, abbellendo le lettere con svolazzi. Disegnava creature bizzarre con orecchie sporgenti, lunghi becchi, occhi tondi, e le circondava di trombe, corna, aspidi. Scriveva persino in sogno, su carta giallognola, una sorta di combinazione tra un libro di storia, le rivelazioni cabalistiche e le scoperte scientifiche. A volte si destava con un crampo al polso per aver scritto troppo a lungo. La stanza di Herman si trovava sotto tetto e durante l'estate era sempre afosa, tranne che nelle ore mattutine, prima dell'alba. Dalla finestra aperta entrava una spessa fuliggine. Sebbene Masha cambiasse spesso le lenzuola e le federe, la biancheria del letto sembrava sempre sudicia. C'erano buchi nel pavimento e di notte si udivano topi raschiare da sotto. Varie volte Masha aveva disposto una trappola, ma gli squittii delle creature intrappolate in agonia erano troppo per Herman. Egli si alzava nel cuore della notte e le liberava. Non appena entrato in camera sua, Herman si distese sul letto. Il suo corpo era torturato dai dolori. Soffriva di reumatismi e di sciatica. A volte pensava di essere affetto da un tumore alla spina dorsale. Non aveva la pazienza necessaria per recarsi dai medici e non riponeva fiducia in loro. Gli anni del hitlerismo gli avevano lasciato una spossatezza della quale non riusciva mai a liberarsi del tutto, tranne quando faceva l'amore con Masha. Dopo aver mangiato, gli doleva lo stomaco. Ogni minima corrente d'aria gli otturava il naso. Spesso aveva il mal di gola e diventava rauco. Qualcosa nell'orecchio gli causava dolore, un ascesso, un'escrescenza. La sola cosa dalla quale il suo organismo andasse esente era la febbre. Faceva ormai buio, ma il cielo continuava a essere luminoso. Una sola stella splendeva vivida, azzurra e verde, vicina e lontana, con un bagliore e una concretezza che lo eludevano. Una linea retta conduceva da quell'altezza dell'universo direttamente fino agli occhi di Hermann. Quel corpo celeste, ammesso che si trattasse di un corpo, ammiccava di cosmica felicità, rideva della piccolezza fisica e spirituale di un essere che possedeva soltanto la capacità di soffrire. La porta si aprì, Masha entrò. Nel crepuscolo il viso di lei sembrava un mosaico di ombre, gli occhi sembravano generare una loro luce, aveva una sigaretta tra le labbra. Hermann seguitava ad ammonirla dicendole che un giorno o l'altro avrebbe appiccato un incendio con le sue sigarette. «Prima o poi brucerò», ella rispondeva invariabilmente. «Ora...» rimase sulla soglia, aspirando. Il bagliore della sigaretta fece sì che la sua faccia sembrasse infuocata e fantastica per un momento. Poi la tolse un libro e una rivista da una sedia e vi si lasciò cadere. Dio del cielo, fa un caldo d'inferno qui. Nonostante la calura, Masha non voleva spogliarsi fino a quando sua madre era sveglia. Per salvare le apparenze, aveva messo lenzuola e guanciale sul divano nel soggiorno. Meyer Bloch, il padre di Masha, si era considerato un miscredente, ma Shifra Pois restava devota e osservava strettamente le norme della cucina kasher. Si metteva perfino la parrucca nei giorni santi, quando andava a pregare. Il sabato voleva a tutti i costi che Meyer Bloch, il marito, celebrasse il rito della santificazione e cantasse gli inni, anche se poi, dopo aver mangiato, egli andava a chiudersi nello studio e scriveva poesie in ebraico. Il ghetto, i campi di concentramento, i campi dei profughi avevano sconvolto le tradizioni sia della madre che della figlia. Nel campo tedesco, dove Shifra Pois aveva vissuto con Masha dopo la guerra, coppie copulavano apertamente. Quando Masha aveva sposato Leon Torschiner, Shifra Pois era stata costretta a dormire nella stessa stanza con la figlia e il genero, protetta soltanto da un paravento. Shifra Pois diceva che l'anima, come il corpo, poteva sopportare soltanto un determinato numero di colpi, non di più. In seguito cessava di soffrire. In America la sua religiosità si era intensificata, pregava 3 volte al giorno e spesso andava in giro con una pezzuola sui capelli, imponendo a se stessa restrizioni che non aveva osservato nemmeno a Varsavia. Continuava a vivere, spiritualmente, con coloro che erano stati uccisi con il gas e torturati. Non faceva che accendere bicchieri pieni di paraffina, candele votive per amici e parenti. Nei giornali yiddish non leggeva altro che i racconti di quelle persone sopravvissute ai ghetti e ai campi di concentramento. Risparmiava sulla spesa per comprare libri che parlavano di Majdanek, Treblinka, Auschwitz. Altri profughi solevano dire che col tempo si dimentica, ma né Shifra Pois né Masha avrebbero mai dimenticato. All'opposto, quanto più si allontanavano nel tempo dall'Olocausto, tanto più esso sembrava avvicinarsi. Masha se la prendeva con sua madre perché si affliggeva tanto per le vittime, ma quando ella taceva, cominciava lei. Allorché parlava delle atrocità tedesche, correva verso la mezzuzà sulla porta e ci sputava sopra. Shifra Pois si pizzicava le gote. «Sputa, figlia, figlia blasfema, abbiamo avuto una catastrofe qua giù e ne avremo un'altra lassù!» E additava il cielo. La separazione di Masha da Leon Torschiner e la relazione che ella aveva con Hermann Broder, marito di una donna gentile, erano per Shifra Pois un protrarsi degli orrori iniziati nel 1939. Sembrava non dovessero finire mai. Ciò nonostante, Shifra Pois si sentiva vicina a Hermann e lo chiamava bambino mio. Era favorevolmente colpita dalla sua conoscenza del giudaismo. Ogni giorno, nelle proprie preghiere, di far sì che Leon Torschiner accettasse di divorziare da Masha e che Hermann si separasse dalla moglie gentile e consentisse a lei, Shifra Pois, di aver la gioia di accompagnare sua figlia sotto il baldacchino nuziale. Ma sembrava che simili soddisfazioni non dovessero toccarle. Chiffrepoix incolpava se stessa. Si era ribellata contro i genitori, aveva trattato male Meyer, il marito, aveva badato ben poco a Masha quando stava crescendo, quando sarebbe stato possibile instillare in lei un timore di Dio, e il peccato più grave che aveva commesso era restare in vita, mentre tanti innocenti, uomini e donne, erano stati martirizzati. Chiffrepoix si trovava in cucina, lavava i piatti e bofonchiava tra sé e sé. Si sarebbe detto che stesse ragionando con una persona invisibile. Spense la luce, poi la riaccese. Recitò la preghiera che va detta prima di coricarsi, prese una pillola per dormire, riempì la borsa dell'acqua calda. Chiffrepoix soffriva di cuore, di fegato, di reni e di malattie polmonari. Ogni pochi mesi cadeva in coma e i medici la davano per spacciata, ma ogni volta si riprendeva poco a poco. Masha ascoltava ogni mossa di sua madre, sempre allerta, nell'eventualità che avesse deciso di aiuto, eppure le due donne covavano l'una contro l'altra innumerevoli rancori. Le loro lagnanze risalivano ai tempi in cui Meyer Bloch era ancora vivo. Egli aveva avuto una relazione amorosa, in teoria platonica, con una poetessa ebrea, un'insegnante di Masha. Masha diceva scherzosamente che quell'amore era cominciato con una discussione su qualche regola della grammatica ebraica, senza mai andare più in là di così. Ma Chiffrepoix non aveva perdonato a Meyer nemmeno quella piccola infedeltà. La stanza di Chiffrepoix era buia adesso, eppure Masha continuava a restare sulla sedia nella camera di Hermann, fumando una sigaretta dopo l'altra. Hermann sapeva che ella stava preparando qualche racconto inconsueto per i loro giochi amorosi. Masha si paragonava a Shahrazad. I baci, le carezze, l'appassionato fare l'amore erano sempre accompagnati da racconti dei ghetti, dei campi di concentramento, dei suoi vagabondaggi tra le rovine della Polonia. In tutti quegli episodi uomini la perseguitavano, nei bunker, nella foresta, nell'ospedale dove ella aveva lavorato come infermiera. Masha aveva collezionato decine e decine di avventure, a volte sembrava che dovesse inventarle, ma Hermann sapeva come ella non fosse una bugiarda. Secondo la morale di tutti i suoi racconti, se Dio aveva avuto lo scopo di migliorare il popolo eletto mediante la persecuzione di Hitler, non vi era riuscito. Gli ebrei religiosi erano stati in pratica eliminati. Gli ebrei mondani riusciti a fuggire, tranne poche eccezioni, non avevano imparato niente da tutto quel terrore. Si confessava nello stesso tempo. Hermann l'ammoniva, esortandola a non fumare a letto, ma lei lo baciava e gli soffiava in faccia anelli di fumo. Scintille delle sigarette andavano a posarsi sul lenzuolo, masticava gomma, ruminava cioccolatini, beveva Coca-Cola. Portava a Hermann roba da mangiare dalla cucina. Il loro fare l'amore non era soltanto un rapporto tra uomo e donna, ma un rito che spesso si protraeva fino all'alba. Ricordava a Hermann gli antichi quando narravano il miracolo dell'esodo dall'Egitto finché non saliva all'orizzonte la stella del mattino. Molti degli eroi e molte delle eroine che popolavano i drammi di Masha erano stati uccisi, avevano perduto la vita nel corso di epidemie o erano rimasti intrappolati nella Russia sovietica. Altri avevano potuto stabilirsi nel Canada, in Israele, a New York. Una volta Masha era entrata in una panetteria per comprare una torta e aveva constatato come il panettiere fosse un ex capo. I profughi la riconoscevano nel ristorante economico in Tremont Avenue, dove ella faceva la cassiera. Alcuni di essi si erano arricchiti in America, avevano aperto fabbriche, alberghi, supermarket. I vedovi si erano presi nuove mogli, le vedove nuovi mariti. Donne che avevano perduto i figli ed erano ancora giovani ne generavano altri nei nuovi matrimoni. Uomini che erano stati contrabbandieri nella Germania nazista e avevano trafficato con merci della Borsa Nera si erano uniti in matrimonio con ragazze tedesche, a volte figlie e sorelle di nazisti. Nessuno si pentiva dei propri peccati, né gli aggressori né le vittime. Masha non si stancava mai di parlare di Leon Tortschiner, il marito, e delle sue frodi. Egli era tutto contemporaneamente, un bugiardo patologico, un ubriacone, un millantatore, un maniaco sessuale, un giocatore d'azzardo capace di puntare anche la camicia che portava addosso. Aveva invitato la sua amante al banchetto nuziale pagato da Masha e da sua madre con i loro ultimi pfennig, si tingeva i capelli, si attribuiva il titolo di dottore al quale non aveva alcun diritto, era stato accusato di plagio, faceva faceva parte, al contempo, del Partito Sionista Revisionista e del Partito Comunista. Dal giudice di New York, che aveva concesso la separazione legale, era stato riconosciuto a Masha il diritto di un assegno settimanale di $15, ma Leon Torschiner non le versava un centesimo, all'opposto, si avvaleva di ogni espediente per spillarle soldi, continuava a telefonarle, le scriveva lettere e la supplicava di tornare con lui. Più di una volta Herman aveva fatto promettere a Masha di prenotare per la salina più tardi. Entrambi dovevano alzarsi presto al mattino per andare al lavoro. Masha però sembrava quasi non avere alcuna necessità di sonno. Poteva appisolarsi ed estarsi riposata pochi minuti dopo. I sogni la tormentavano. Dormendo urlava, parlava in tedesco, in russo, in polacco. I morti le si rivelavano. Servendosi di una lampadina tascabile, mostrava a Herman i segni lasciatile dai defunti sulle braccia, sui seni, sulle cosce. Suo padre le appariva in un sogno e le leggeva i versi composti nell'aldilà. Una strofa le era rimasta in mente e lei l'aveva recitata a Herman. Sebbene Masha avesse avuto le sue avventure amorose in passato, non riusciva a perdonare a Herman le relazioni precedenti con le altre donne, nemmeno con quelle che erano morte. Aveva mai amato Tamara, la madre dei suoi figli? Il corpo di lei lo aveva attratto più di quello di Masha? E in che modo? Bene, e la studentessa di lingue romanze, allora? La fanciulla dalle lunghe trecce? E Jadwiga? Era davvero fredda come lui diceva? E che cosa sarebbe accaduto se Jadwiga fosse morta all'improvviso, se si fosse uccisa? E qualora lei, Masha, avesse dovuto morire, per quanto tempo l'avrebbe ricordata Herman? Per quanto tempo avrebbe aspettato prima di trovarsi qualcun'altra? Ah, se almeno una volta fosse stato sincero con lei. E tu, per quanto tempo aspetteresti? Le domandò Herman. Non vorrei mettermi mai più con nessuno. È la verità? Sì, demonio, è la santa verità. E lo baciò a lungo, appassionatamente. Nella stanza calò un tale silenzio che si poté udire un topo raschiare sotto il pavimento. Masha aveva l'agilità di un acrobata, destava in lui desideri e capacità che egli non sapeva di possedere. In qualche modo mistico, riusciva a fermare temporaneamente l'emorragia quando aveva le mestruazioni. E sebbene né Masha né Herman fossero perversi, parlavano senza posa tra loro di comportamenti sessuali inconsueti e di perversioni. Avrebbe goduto, lei, torturando un nazista assassino? Avrebbe fatto l'amore con le donne se sulla terra non fossero più rimasti uomini? Sarebbe stato capace, Herman, di diventare omosessuale? Avrebbe copulato con un animale se tutti gli esseri umani fossero periti? Soltanto dopo la relazione con Masha, Herman aveva cominciato a capire perché l'amplesso, il congiungimento tra maschio e femmina, rivestiva tanta importanza nella Cabala. In certi momenti, quando Herman fantasticava su una nuova metafisica o anche su una nuova religione, basava ogni cosa sull'attrazione tra i sessi. All'inizio era la lussuria, il principio divino, così come quello umano è il desiderio. La gravità, la luce, il magnetismo, il pensiero possono essere aspetti dello stesso anelito universale. La sofferenza, il vuoto, le tenebre, altro non sono se non interruzioni di un orgasmo cosmico, la cui intensità aumenta in eterno.